Bene, concludiamo questo percorso, diciamo, di letteratura italiana con questa audio lezione su Umberto Saba. Dunque, non siamo andati molto avanti, non abbiamo affrontato gli autori, molti autori del secondo Novecento, ma io di esami di maturità ne ho fatti tanti come commissario esterno, non ho mai, dico mai, trovato una classe che fosse andata oltre Montale, quindi non c'è niente di così strano. Evidentemente il tempo è tiranno, cosa volete che vi dica? Allora, beh, anche meglio per voi che insomma così avete un po' meno da studiare, già dovete portare tutte le materie, vabbè che i commissari sono tutti esterni, quindi tutti queste buonanotte. Sono tutti interni, quindi vabbè, questo si presume che insomma un po' agevoli la faccenda, anche perché di rotture di Zebedei quest'anno ne abbiamo già avute abbastanza, insomma. Almeno l'esame cerchiamo di semplificarlo, non che gli altri anni fosse proprio proibitivo, ma insomma quest'anno cerchiamo di snellirlo ulteriormente. Vabbè, Umberto Saba, tipico esempio di poeta mitteleuropeo. Abbiamo già parlato più volte della cultura mitteleuropea, abbiamo studiato uno dei principali esponenti di tale cultura, cioè Italo Svevo, non tanto scrittore italiano forse quanto direi scrittore mitteleuropeo di espressione italiana, tipico esempio di ebreo cosmopolita culturalmente, insomma in contatto con Joyce, in contatto beh, anche con Montale, come vi ho già detto, insomma. Ad ogni modo, la cultura mitteleuropea ha questo carattere di cultura di confine, di cultura ibrida, di cultura polifonica, multiforme, insomma. Proprio per questo è molto, molto moderna e anche molto in accordo con lo spirito così internazionale, cosmopolita, con questa erranza diasporica globale che caratterizza la nostra epoca. Anche se poi sotto sotto l'aspetto culturale non è che sia molto, molto importante oggi, insomma, nella globalizzazione prevale l'aspetto economico, ma dal punto di vista culturale, insomma, il cosmopolita, questo mondo globalizzato dovrebbe avere, no, come corrispettivo una visione interculturale, multiculturale. E via discorrendo. Beh, l'opera di Claudio Magris è caratterizzata proprio da questa consapevolezza. Danubio di Claudio Magris, forse il suo capolavoro, è proprio un grande inno a questa cultura mitteleuropea che Claudio Magris ha approfonditamente studiato anche come critico e come storico della letteratura. Ad ogni modo, insomma, è difficile dare una definizione univoca della cultura mitteleuropea. Umberto Saba poi fu un mitteleuropeo atipico per molti aspetti, ma sicuramente il denominatore comune della cultura mitteleuropea è una grande tendenza all'introspezione, all'autoanalisi. Non a caso Sigmund Freud, come sapete, padre della psicanalisi, rientra appieno nella cultura mitteleuropea, insomma. La psicanalisi è proprio espressione della Vienna del primo Novecento, quindi pieno clima mitteleuropeo, ma anche la figura dell'inetto, dell'uomo senza qualità, insomma, che si trova in Saba, così come in Musil, in Kafka anche, no? Insomma, il personaggio che, come mi sembra di avervi già detto anche quando abbiamo parlato di Montale proprio, no? L'uomo abbozzo. Come veniva chiamato, ma si potrebbe fare lo stesso discorso anche per Pirandello, insomma, l'uomo che proprio per il fatto di non avere un'identità ben definita, di non avere qualità spiccate, di non essere un lottatore, un agonista, un uomo così convinto delle proprie idee, pronto a lottare per esse. Proprio per il fatto di essere così debole, angosciato, ma anche capace di ironia e di autoironia, insomma, proprio per questa sua apparente natura così di perdente, di debole, in realtà ha ancora tante qualità inespresse, ha anche un carattere più profondo, più multiforme, più sensibile rispetto a quello dell'uomo che se ne va sicuro agli altri e da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Oddio, nella vita forse è meglio non essere, ecco, gli inetti, eccetera, è meglio essere più superficiali, più stupidotti, ma insomma, diciamo, avere più soddisfazioni materiali, ma insomma, vabbè, questione di punti di vista. Comunque, Umberto Saba fu un mitteleuropeo atipico, perché in realtà le radici della sua poesia, la sua sensibilità era decisamente mitteleuropea. Ci sono anche delle lettere sulla psicanalisi scritte da Umberto Saba, lettere a dire il vero inviate privatamente, poi raccolte, pubblicate, le lettere sulla psicanalisi. Insomma, no, Saba, anche se in modo forse un po' dilettantistico, si confrontò con Freud, anche con Jung, con il pensiero di Jung, che forse non si studia a scuola oggi in filosofia, non lo so. Ad ogni modo, ecco, questa tendenza all'introspezione indubbiamente si trova anche in Saba. Tuttavia il suo stile, lo stile di Saba è stato definito antinovecentesco. Questo può indurre qualche equivoco, perché in realtà ovviamente Umberto Saba fu un poeta del Novecento, decisamente, grande esponente della poesia italiana della prima metà del Novecento, ma la sua sensibilità ha radici pre-novecentesche, il suo stile, non tanto la sua sensibilità, il suo stile, ecco, ha radici decisamente pre-novecentesche. Saba non sopportava il futurismo, non sopportava l'ermetismo. I suoi grandi modelli erano Petrarca, Foscolo soprattutto, Carducci, direi principalmente Petrarca, Foscolo e Carducci, ecco, c'è molto nella poesia di Saba, c'è molto di questi autori. Non si trovano in Saba le audace della poesia ermetica, l'analogismo così spesso ardito, e lo stile spesso involuto, oscuro, volutamente ambiguo, che si trova negli ermetici. Proprio per questo, stranamente, è un poeta che di solito piace agli studenti. È uno, anzi, credo di poter dire, è l'unico poeta del Novecento che piace agli studenti, almeno ad alcuni, proprio perché tutto sommato si capisce, insomma, detta in parole povere, insomma, quello che vuole dire si capisce, insomma, non è cosa da poco, perché alcuni hanno scambiato questa, diciamo pure, chiarezza, immediatezza, questa aderenza alla realtà, alla vita, la calda vita di tutti gli uomini, di tutti i giorni, come diceva Saba. Alcuni hanno scambiato questa, non dico semplicità, ma diciamo questa autenticità, questa immediatezza, questa umanità, per superficialità, per banalità, per anche eccessivo tradizionalismo. Forse anche per questo Saba non è che oggi sia valutato molto positivamente dai critici. La critica tende un po' la critica e la storiografia letteraria tendono un po' a considerarlo, non dico un minore, ma insomma non è studiato come Montale, come Ungaretti. Anche Quasimodo oggi è un po' deprezzato, non è così, insomma, perché c'è così un broscino di valori letterari, un po' come nella pittura, solo che le poesie non si vendono. Ma no, per cui alcuni autori vengono più apprezzati in un periodo, poi vengono un po' svalutati, poi vengono rivalutati. Attualmente Montale è studiatissimo in tutto il mondo, Ungaretti è ancora apprezzato, Quasimodo non ha mai goduto di ottime critiche. Quando vinse il Nobel ci fu quell'articolo di Emilio Cecchi, un critico molto influente all'epoca, un grande critico letterario italiano. A cavallo nato non si guarda in bocca, no? Terribile articolo in cui Emilio Cecchi diceva che il premio Nobel a Quasimodo era come regalato, insomma, che era, Quasimodo era stato sopravvalutato. Pare che dietro quell'articolo ci fosse la volontà di Montale, che lavorava al Corriere della Sera e che c'era rimasto male, era invidioso, perché insomma Quasimodo aveva vinto il Nobel, lui no, lui poi lo vinse anche Montale. non avevano ancora visto Dario Fo vincere il premio Nobel, quindi a quel punto uno dice se ne fossero di Quasimodo, insomma. Comunque, ecco, che volevo dire? Ah, ecco, Umberto Saba, si fa presto a ricordare le opere di Umberto Saba perché fondamentalmente scrisse un solo libro intitolato Il Canzoniere. Ma di questo, ecco, Il Canzoniere, il titolo chiaramente rinvia a Petrarca, al canzoniere di Petrarca. A dire il vero, la raccolta di poesie di Petrarca, pur essendo in italiano, le poesie hanno un titolo latino, no? Rerum Vulgarium Fragmenta, ma viene normalmente indicato come Il Canzoniere. A dire il vero, Il Canzoniere di Umberto Saba è un'opera stratificata di cui uscirono varie, un'opera divisa in varie sezioni e di cui uscirono diverse edizioni, costantemente accresciute e anche modificate, un po' come Mirice di Pascoli, no? Hanno questa caratteristica di essere così works in progress, come si dice, no? Cioè, opere di cui uscirono diverse edizioni accresciute progressivamente. Del resto anche del Canzoniere di Petrarca sono rimaste 9 stesure manoscritte con varianti, no? Quindi comunque praticamente ebbe la prima pubblicazione nel 1921 in 600 esemplari, perché non è che anche in passato la poesia vendesse queste, insomma, decine o centinaia di migliaia di copie. L'Osso di Seppia vendette 40.000 copie in 40 anni, no? Si calcola, o meglio, lo dice lo stesso Montale. Libreria fu pubblicato col marchio Libreria Antica e Moderna perché Umberto Saba, per guadagnarsi da vivere, aveva una libreria antiquaria a Trieste. Pubblicata varie volte, 1945-1948, fino all'edizione postuma del 1961, in cui c'erano altre sezioni, insomma, praticamente tipico esempio di opera di una vita, testi scritti nell'arco addirittura di un cinquantennio, praticamente opera costantemente accresciuta. Ecco, per poter capire la poesia e la personalità di Saba bisogna tener conto delle sue radici ebraiche, o meglio, radici per metà ebraiche, perché Umberto Saba era ebreo per parte di madre e invece cattolico, perché lì il discorso era più che altro di identità religiosa. Ebreo per parte di padre e cattolico per parte di madre, e Umberto Saba aveva un rapporto conflittuale con il padre, no? Mio padre fu mio padre per me l'assassino, perché insomma, la madre considerava il marito, no? Un uomo violento, fedifrago, eccetera, traditore. Quindi ebbe non ebbe, insomma, una immagine, una imago paterna, come avrebbe detto Jung, particolarmente positiva. La madre invece ebrea, ecco, Umberto Saba dice: erano due razze in antica tenzone. Erano due razze in antica tenzone. Noi oggi la parola razza non la usiamo più, perché oggi, no, questo concetto di razza ha una pericolosa connotazione xenofoba, no? Mentre nel caso di Saba erano due razze in antica tenzone, lui intende due identità divise da un'antica antitesi, da un'antica contrapposizione, no? L'identità ebraica e quella cristiana che confliggono nella sua opera, che andrebbe tutta letta in questa chiave, e forse non è ancora stata letta pienamente in quest'ottica della dialettica proprio di radici cristiane e radici ebraiche, emblematicamente rappresentata da questi due genitori, no? E qui chiaramente si potrebbero sprecare i richiami alla psicanalisi, a Freud, a Jung, la imago materna e la imago paterna, che sono le due, i due grandi archetipi, insomma, animus e anima, se vogliamo, no? Animus, la componente razionale, anima invece quella affettiva, tenera, sentimentale, empatica, eccetera. C'è un sonettino che io non ho, che è tratto da una sezione del canzoniere intitolata Autobiografia, una sequenza di sonetti che, a dire il vero, dal punto di vista letterario non sono proprio dei capolavori. Ad ogni modo c'è quel sonetto che inizia proprio mio padre, già l'uso del sonetto, no? Montale scrisse qualche sonetto inglese, cioè con lo schema A, B, A, B, CD, CD, EF, EF, GG, cioè lo schema di rime del sonetto inglese, del sonetto shakespeariano. Quasimodo non scrisse mai sonetti, Ungaretti scrisse una sestina, o forse anche più di una, perlomeno sicuramente una sestina, ma l'uso della forma chiusa, Gozzano scrisse dei sonetti, anche vabbè, nel secondo Novecento Zanzotto scrisse dei sonetti, ma l'uso della forma chiusa nel Novecento non è che sia proprio frequentissimo, anzi è piuttosto raro, perché la forma chiusa, il sonetto, viene considerato chiaramente tipico della tradizione, insomma, usato costantemente fino all'Ottocento, anche D'Annunzio dopo il periodo giovanile abbandona la forma del sonetto, anche in Pascoli si trovano pochi sonetti, insomma, una forma che viene progressivamente abbandonata. Invece in pieno Novecento Saba continua a scrivere sonetti come se nulla fosse. Mio padre è stato per me l'assassino, insomma, trovate facilmente il testo in rete, fino ai 20 anni che l'ho conosciuto. Allora ho visto che gli era un bambino e che il dono che ho da lui l'ho avuto. Versi così letterariamente bruttarelli, sembrano proprio scritti da un bambinetto, ma dal punto di vista della testimonianza autobiografica sono interessanti, perché c'è questo rapporto ambivalente: il padre che da un lato è l'assassino per definizione, evidentemente era la madre che lo chiamava così, no? Era la moglie già che lo chiamava così, no? Per le sue malefatte, i suoi tradimenti, il dono della sensibilità, insomma, evidentemente Saba sentiva di averlo segretamente ereditato proprio dal padre. Aveva in volto il mio sguardo azzurrino, un sorriso in miseria dolce e astuto. Andò sempre per mondo pellegrino, più di una donna l'ha amato e pasciuto. Beh, beato lui, perché trovava queste donne che lo amavano e gli davano anche da mangiare, insomma, no? L'ha amato e pasciuto, meglio di così. Egli era gaio e leggero, mia madre tutti sentiva della vita i pesi. E questo è un bel verso, no? Tutti sentiva della vita i pesi, sentiva vita con tutte queste T, da proprio un senso di pesantezza, di fatica. Di mano egli sfuggì come un pallone, vabbè, qui doveva far rima, inone, vabbè. Però questa immagine del pallone, no? fa piacere un po' a montare, no? Cioè, nulla paga il pianto del bambino a cui fugge il pallone fra le case. Fra l'altro, come vi ho già detto, Saba, pur diversissimo da Montale per sensibilità, per stile e via discorrendo, fu amico di Montale, che fra l'altro fece una cosa non da poco, cioè lo salvò dalle deportazioni nascondendolo nella propria cantina. Questo è un dettaglio non indifferente. E c'è una commovente poesia, anche quella non fra le migliori letterariamente, ma dal punto di vista umano significativa, per abbracciare il poeta Montale, ma anche questa se la cercate su internet la trovate su, per abbracciare il poeta Montale, proprio intitolata così, e cercandola salta fuori una pagina Facebook, non è proprio una fonte, comunque un testo molto breve. Per abbracciare, ecco, per abbracciare il poeta Montale, generosa è la sua tristezza, sono nella città che mi fu cara. A dire il vero, la poesia si intitola Firenze, ma comincia così. Città legata anche al periodo in cui lui cercava di nascondere, cercò e riuscì anzi a nascondersi dai nazisti. Trieste era estremamente pericolosa, c'era la risiera di San Sabba, insomma, per un ebreo a Trieste nel periodo dell'occupazione nazista, insomma, era decisamente una brutta aria. E allora riuscì a scappare a Firenze e Montale lo nascose in casa propria, no? In cantina, tipo Anna Frank, insomma. Ci sono nella città che, fra l'altro, Umberto Sabba, questo lo racconta proprio Montale, Sabba era abituato a fare la sua passeggiatina giornaliera, se non faceva la passeggiatina poi non riusciva a scrivere. C'era Montale che gli dice: no, guarda, non è il caso, insomma, vista l'aria che tira, insomma, ci sono, sai, questi nazisti in giro, forse non è il caso di fare la passeggiatina, meglio se te ne torni in cantina. E così dice: è come se ogni pietra che il piede batte fosse il mio cuore, il mio mare di un tempo, ma non ho rimpianti, nasce altra costellazione, un'altra età. Probabilmente questo nasce un'altra età come un'altra costellazione, è anche la volontà di superare quel brutto periodo. Dice: ma il mio male di un tempo potrebbe essere anche la depressione, la malinconia per cui, da cui Sabba fu sempre tormentato per tutta la vita. No. Quindi, ah, ecco, siamo rimasti al testo di prima. Al sonetto dell'autobiografia dice: egli era gaio e leggero, mia madre tutta sentiva della vita i pesi. Fra l'altro, c'è questo contrasto fra pesantezza e leggerezza, no? La madre che porta i pesi della vita, il padre invece che è gaio e leggero. C'è una sezione del canzoniere che si intitola Cose leggere e vaganti, molto, molto suggestivo anche il titolo, e c'è un breve testo. Questi testi brevi ricordano quasi degli epigrammi greci, no? Se vogliamo, ad altre cose leggere e vaganti. Il testo è il ritratto della mia bambina di Umberto Saba. Appunto, sono questi testi: la mia bambina con la palla in mano, con gli occhi grandi colore del cielo e dall'estiva vesticciola. Babbo mi disse: voglio uscire oggi con te. Ed io pensavo, di tante parvenze che si ammirano al mondo, io penso a quali posso la mia bambina assomigliare, cioè paragonare. Certo, la schiuma, la marina schiuma che sull'onde biancheggia, a quella scia che esce azzurra dai tetti e il vento sperde. Anche le nubi, insensibili nubi che si fanno e disfanno in chiaro cielo, e ad altre cose leggere e vaganti. Ecco, è come se il principio femminile. Beh, veramente è il contrario. Qui, diciamo, la sensibilità del poeta che viene paragonata all'idea della leggerezza, no? Italo Calvino, nelle Lezioni americane, dedicherà proprio un capitolo alla leggerezza come caratteristica tipica di una certa letteratura, in particolare di Ariosto, no? No. Notate che qui il paragone è proprio esplicito, no? Io penso a quali posso la mia bambina assomigliare. Certo, alla schiuma, alla marina schiuma. Cioè, qui il paragone e la similitudine sono espliciti, mentre l'analogismo simbolista ed ermetico sopprimeva il come e usava metafore anche estremamente ardite e oscure. Un poeta ermetico avrebbe detto, non so: nube lieve nell'aria la bambina, cielo sui tetti, fumo che svanisce, non so, una roba del genere. Adesso l'ho buttata così. Allora, dice: ecco, non somigliare ammoniva a tuo padre, ed io più tardi in me stesso lo intesi. Erano due razze in antica tenzone. Evidentemente il rapporto così difficile fra i genitori, questo conflitto fra l'ebraismo e il cristianesimo, poi si traduce anche nelle due anime di Saba, cioè da un lato la profondità, anche la sofferenza, il male di vivere che anche Saba sentì, perché soffrì per tutta la vita, e anche in alcuni della vita il doloroso amore, dice nella poesia Ulisse che leggeremo, no? E della vita il doloroso amore. Forse proprio questo ossimoro sintetizza, no? Beh, ossimoro, l'amore può anche essere fonte di dolore. Comunque questa espressione così sintetica forse riassume in sé questa conflittualità fra profondità e leggerezza, fra sofferenza del vivere e ricerca di levità e di bellezza e di leggiadria. Dunque, andiamo con ordine. Si fa per dire, allora praticamente. Ah, ecco, la poesia onesta. Vabbè, vi ho messo lì nello spazio didattica anche un riassuntino di 6 pagine, c'è anche una bella foto, insomma, che riassume un po' i punti fondamentali in modo molto chiaro, molto semplice. Sarà preso da un testo, penso, un testo per i professionali, per i tecnici. Ci sono anche 2 sonnettini tratti dall'autobiografia, fra cui proprio quello che vi ho letto: mio padre è stato per me l'assassino. Comunque, dicevo, qua, insomma, se per caso qualcuno, cioè io, dovesse chiedervi, illustra la poetica di Saba, beh, allora di solito si dice, giustamente, insomma, si cita l'articolo pubblicato sulla rivista La Voce, una rivista molto importante che usciva a Firenze, ai poeti resta da fare la poesia onesta. Veramente l'articolo si intitolava Cosa resta da fare ai poeti? Beh, comunque, uscito sulla rivista La Voce, che era una importante rivista, un'importantissima rivista fiorentina del primo Novecento. Noi non abbiamo parlato dei Vociani, abbiamo saltato purtroppo Renato Serra, l'esame di coscienza di un letterato. Comunque, vabbè, adesso solitamente si cita questa frase di Umberto Saba, cioè, poeti resta da fare la poesia onesta. Quando un poeta scrive troppo difficile, troppo oscuro, gli si dice: ricorda quello che diceva Saba, bisogna fare la poesia onesta, come se questa poesia onesta fosse per forza una poesia che può essere capita anche dai grulli. Invece non è proprio così. So. Comunque c'è un contrapposto, quindi bisogna vedere l'affermazione nel contesto, cioè prendere il testo famoso, più citato che letto, in cui appunto Umberto Saba enuncia questo principio. Io ve l'ho caricato lì insomma, sul registro elettronico. C'è un contrapposto, c'è una contrapposizione, che se può sembrare artificioso, qui ho messo delle note anche per espressioni che possono apparire ovvie, ma insomma può capitare di insegnare italiano anche allo scientifico e lì insomma capite che ci sono. Vabbè, lasciamo perdere. C'è un contrapposto che se può sembrare artificioso, pure rende abbastanza bene il mio pensiero. Il contrapposto, cioè la contrapposizione, appunto, è fra i 2 uomini nostri più compiutamente noti che meglio si prestano a dare un esempio pratico di quello che intendo per onestà e disonestà letteraria. È fra Alessandro Manzoni e Gabriele D'Annunzio. Li abbiamo fatti tutti e 2, Manzoni, insomma, vi ricorderete meglio quello che avete fatto al biennio, forse. Vabbè. Comunque, fra gli inni sacri e i cori della Delchi. E il secondo libro delle laudi è La Nave, cioè da una parte gli inni sacri e i cori della Delchi, questa è roba che abbiamo letto però alla fine dell'anno scorso, quindi insomma, dubito che vi ricordiate qualcosa. Comunque, il secondo libro delle laudi è La Nave, vabbè, qui fa riferimento a Maia e alla tragedia La Nave, cioè 2 testi di D'Annunzio che non abbiamo fatto, ma insomma, pensate agli aspetti più enfatici, più diciamo, anche retorici dello stile di D'Annunzio, cioè il D'Annunzio peggiore, insomma, gli aspetti deteriori, insomma, dell'opera d'annunziana, fra versi mediocri e immortali e magnifici versi per la più parte caduchi. Ecco, mediocri e immortali. In effetti, insomma, molti versi di Manzoni non è che siano poeticamente particolarmente belli, no? Sono anche a volte un po' pesanti, dissonanti, faticosi, troppo sintetici, troppo densi, non so, certi versi. Ma hanno un profondo significato, no? Umano, religioso, morale. Mentre D'Annunzio aveva uno stile molto più raffinato, ma era anche spesso povero di contenuti, questo è vero, cioè troppo retorico, diciamo, troppo verboso, come si dice, troppo magniloquente, prolisso, ecco, ma spesso vacuo, cioè povero povero di contenuti. L'onestà dell'uno e la nessuna onestà dell'altro, così verso loro stessi, meglio dire se stessi, come verso il lettore, sono i due termini cui può benissimo ridursi la differenza dei due valori. Insomma, Manzoni, non sempre raffinato dal punto di vista stilistico, perlomeno nella poesia, ecco, ma ricco di contenuto, di moralità, insomma, di spiritualità, dall'altro lato invece il raffinatissimo D'Annunzio, raffinatissimo ma spesso vuoto e anche falso, ecco, D'Annunzio. A chi sa andare ogni poco, cioè appena un po', oltre la superficie dei versi, apparisce, meglio appare, insomma, in quelli del Manzoni, la costante e rara cura di non dire una parola che non corrisponda perfettamente alla sua visione. Questo è vero, se pensate agli inni sacri e anche al 5 maggio, che non fa parte degli inni sacri, o anche al secondo coro della Delchino, sparsa le trecce morbide sull'affannoso petto, eccetera. Effettivamente, sono versi che a volte possono apparire un po' anche pesanti, un po' aspri, un po' con poche immagini, troppo concettosi, troppo anche un po' didascalici, se vogliamo, ma effettivamente non c'è una parola di troppo. Un critico dell'epoca li definì oscura prosa rimata, intendo i versi del Manzoni, ecco, furono definiti da un critico dell'epoca oscura prosa rimata. Per certi aspetti è vero, prosa rimata, perché era una poesia in cui sulle immagini e sulla bellezza dello stile prevaleva la sostanza concettuale. In D'Annunzio è poi il contrario. C'è una esuberanza, una sovrabbondanza così verbale che fa pensare quasi al barocco, quasi al marino, ma a volte un fondo di povertà concettuale. Dice, mentre vede che l'artificio del D'Annunzio non è solo formale, ma anche sostanziale. Egli si esagera o addirittura si finge passioni e ammirazioni che non sono mai state nel suo temperamento. Era la stessa critica che a D'Annunzio rivolgeva Pirandello. La vita o si vive o si scrive, D'Annunzio, diceva Pirandello, dà l'impressione di vivere la vita soltanto per scriverla. Cioè, la vita diventa qualcosa di falso che esiste soltanto in funzione della trasfigurazione letteraria, al che D'Annunzio rispose: vivo, scrivo, esprimermi, esprimere è vivere. Cioè, diceva, non ha alcun senso distinguere la vita dall'arte, non ha alcun senso dire che la vita venga falsata o mistificata dalla rappresentazione artistica, perché in realtà in me le due cose coesistono, coincidono. E questo imperdonabile peccato contro lo spirito egli lo commette al solo e ben meschino scopo di ottenere una strofa più appariscente, un verso più clamoroso. Clamoroso nel senso di che suoni bene, insomma. Egli si ubriaca per aumentarsi, l'altro è il più astemio e il più sobrio dei poeti italiani. Qui c'è un riferimento ironico al motivo così niciano della ebbrezza, no? La ebbrezza dionisiaca. D'Annunzio si ubriaca per aumentarsi, cioè per sembrare più grande di quello che è, esagera, insomma, per sembrare un poeta più grande di quello che è in realtà, per non travisare il proprio io e non ingannare con false apparenze quello del lettore, resta semmai al di qua dell'ispirazione. Ecco, Manzoni è molto più dimesso, molto più modesto, dice lui, meno altisonante, meno roboante di D'Annunzio. Beh, insomma, dice, no? E scioglie all'urna un cantico che forse non morrà. In realtà anche Manzoni era consapevole della propria grandezza e del fatto che sarebbe stato ancora studiato per generazioni. Questa austerità in lui innata era poi accresciuta da motivi religiosi, perché certo egli credeva che Dio, che gli aveva dato il genio, gli avrebbe chiesto conto di ogni parola, direi quasi di ogni interpunzione. Questa è un'osservazione molto profonda nel poeta cristiano per eccellenza Manzoni, e come lo stesso Manzoni scrive in un testo importante, dell'invenzione, ecco, un saggio della maturità, anzi della vecchiaia credo di Manzoni, intitolato dell'invenzione, ispirato dalla filosofia di Antonio Rosmini, grande, si potrebbe dire, idealista cristiano. Manzoni paragona la creazione poetica all'incarnazione del verbo, cioè come il verbo divino si incarna nella persona di Cristo, così il pensiero del poeta deve incarnarsi nelle sue parole, nelle sue pagine. Quindi il poeta non può mentire, deve semmai così cercare di avvicinarsi alla parola sacra, no? Al verbo che è via, verità e vita. Quindi ogni forma di artificio letterario deve essere bandita, anche se è impossibile evitare l'artificio letterario, come si fa. Insomma, lo stile comporta sempre una certa dose di finzione, di elaborazione. Ecco, Manzoni, il rifiuto del neoclassicismo, no? Dopo la conversione, Manzoni rinnegò, rigettò tutta la ripudiò, ecco, per usare il termine giusto, ripudiò tutta la produzione precedente, tutti i versi di ispirazione ancora neoclassica, montiana, foscoliana, perché anche per motivi religiosi, perché un poeta cristiano non poteva parlare di divinità classiche, no? Non poteva parlare di Diana, di Apollo, di Venere, c'era anche una motivazione religiosa. No. Allora, chi non fa versi per il sincero bisogno di aiutare col ritmo l'espressione della sua passione, ma ha intenzioni bottegaie o ambiziose, non può nemmeno immaginare quale tenace sforzo dell'intelletto e quale disinteressata grandezza d'animo occorra per resistere a ogni lenocinio. Il lenone è propriamente il lenone sarebbe il protettore, il manager, diciamo, di una prostituta, ma per lenocinio qui si intende finzione, adulazione, artificio, e mantenersi puri e onesti di fronte a se stessi, anche quando il verso menzognero è preso singolarmente il migliore. Ecco, il poeta, in nome della sincerità dell'ispirazione, deve essere pronto, se necessario, anche a scrivere versi brutti. Ecco, letterariamente, poeticamente brutti. Di una poesia non resta solo come di una prosa, e in effetti in Saba ci sono molti versi così, un po' goffi, un po' maldestri, che sembrano quasi infantili a volte, no? Ne abbiamo sentiti alcuni anche in quei due o tre testi che ho letto, testi la cui ispirazione era comunque sincera, no? mentre della poesia ermetica, che è molto più raffinata, si potrebbe invece dire che l'ispirazione non è sempre autentica, non è sempre spontanea. Di una poesia non resta solo come di una prosa lo spirito che l'animava, ma anche la materia in cui si è incarnato. Non è la commemorazione dei protestanti, ma l'ostia del rito cattolico, tutto il corpo e tutta l'anima del Signore. Qui l'ebreo Saba, in fin dei conti, ragiona proprio da cattolico. Lui non diventò mai cattolico, ma non era neanche pienamente ebreo, insomma, era un po', aveva una spiritualità sua propria che era metà strada fra le due identità, insomma. E qui però c'è questa idea tipicamente cattolica della parola poetica come verbo incarnato, cioè la parola poetica deve essere autentica, sincera, proprio come la parola che si incarna, e questo è un punto di contatto con Montale, pur così diverso da lui. Lo stile di Montale, che pure è comunque diverso, anzi antitetico rispetto a quello degli ermetici, ma per motivi diversi è ugualmente oscuro e arduo. Eppure anche in Montale c'è questa idea della parola incarnata: rifuggo l'iddia che non si incarna, cioè insomma anche oggetti o incontri o situazioni o figure, soprattutto femminili, apparentemente immanenti, transeunti, effimere, comunque possono essere incarnazioni o lampi o epifanie di una dimensione ulteriore. Quindi questa idea della parola incarnata si trova anche in Montale, anche se in modo diverso. Allora, dice: tutto il corpo del Signore. Quando parlando di un romanzo, di una novella, di un'opera d'arte o di pensiero si riportano solo i fatti, i sentimenti o le idee che vi sono espressi, di un poeta si ripetono addirittura i versi. Questo è vero, è difficile che qualcuno citi a memoria un brano di un romanziere, no? Insomma, capita a volte, ma i versi chiaramente hanno, o almeno avevano, oggi ormai, vabbè, ma un tempo c'era questa tradizione, ad esempio di citazioni dantesche, no? Quelli che, insomma, certe citazioni dantesche che erano diventate proverbiali, ormai non lo sono più, ma fino a qualche decennio fa lo erano. E quanto più sono facili le involontarie imitazioni, tanto più necessaria diventa la loro medicina, che è quello che ho chiamato onestà letteraria, che è prima un non sforzare mai l'ispirazione, poi non tentare per meschini motivi di ambizione o di successo di farla parere, cioè apparire più vasta e trascendente, di quanto per avventura essa sia. Per avventura vuol dire per caso. È reazione durante il lavoro alla pigrizia intellettuale che impedisce allo scandaglio di toccare il fondo. Questo, vedete, è un motivo ungarettiano, no? Il poeta che scende in profondità e poi risale alla luce con i suoi canti. Il motivo, no, del porto sepolto. Reazione alla dolcezza di lasciarsi prendere la mano dal ritmo della rima, da quello che volgarmente si chiama la vena. Bisogna con lunga disciplina prepararsi a ricevere la grazia con animo proprio, fare un quotidiano esame di coscienza. Questo è un motivo tipico della cultura vociana, no? L'esame di coscienza, questo ripiegamento interiore si ritroverà in Giuseppe De Robertis e poi in Renato Serra, che proprio sulla voce pubblicherà, no, l'esame di coscienza di un letterato. Il concetto di esame di coscienza chiaramente ha radici cattoliche. Una volta, no, non so oggi come funzioni, non so quelli che fanno la prima comunione, i bambini, no, facciano ancora l'esame di coscienza, poi la confessione, la prima confessione, io me la ricordo ancora. Comunque, questa idea dell'esame di coscienza è chiaramente un'idea di matrice cattolica, ma prima ancora di origine stoica, perché già Seneca, no, diceva: io ogni sera, com'è che la chiamava? Inspectio sui, una cosa del genere. Comunque, questo concetto dell'esame di coscienza c'era già nella filosofia stoica, ad esempio, prima ancora che nel cristianesimo. Il termine usato, Deira 3:36. Cioè, vabbè, col cavolo che me lo sarei ricordato a memoria, ho guardato su internet anch'io. Comunque, vabbè. Omnes sensus perducendi sunt ad firmitatem, natura patientes sunt, vabbè. E qua c'è proprio l'espressione. Ecco, recognitio sui, ecco, Deira 3:36. È un concetto, quello di esame di coscienza, di origine stoica, prima ancora che cristiano trattino cattolico. Dice: un quotidiano esame di coscienza, rileggersi in quei periodi di ristagno in cui è più possibile l'analisi, cercando sempre di ricordarsi lo stato d'animo che ha generato quei versi e rilevando con eroica meticolosità la differenza fra il pensato e lo scritto. Sicuramente Saba non aveva in mente Seneca quando scriveva queste righe, ma se uno prende queste righe e le confronta con quel brano del Deira, trova concetti ed espressioni quasi identici. Se dopo la vivisezione, notate questo termine che oggi è orrendo perché viene associato, no, a quella barbara pratica, no, la vivisezione, che fra l'altro è proibita proprio per legge, ma dice: il poeta dovrebbe compiere una sorta di vivisezione nei confronti di se stesso, cioè, diciamo, lacerare la propria interiorità, scrutare fin nel profondo. Alcuno si accorgesse che ben pochi dei suoi sentimenti richiedono la poesia, che faccia solo quel poco, magari niente, ricerchi in un laborioso ozio, ozio nel senso del latino ozium, ovviamente, cioè come momento di riflessione, di esercizio culturale e di creatività, quello che può sostituire per lui la poesia in versi. È solo con questo metodo che potrà una buona volta essere messo in chiaro quanto è rimasto di vivo della più antica forma di espressione letteraria. Cioè, della poesia, appunto. Ai poeti della generazione presente resta da fare quello che dovrebbero fare i figlioli, i cui genitori furono malamente prodighi di averi e di salute. Una vita di riparazione e di penitenza, senza la preoccupazione di essere essi o i posteri a cogliere il frutto dell'attività riparatrice. I poeti sono come, no, figli di genitori che abbiano dissipato tutto e devono così amministrare il piccolo patrimonio rimasto con grande meticolosità e con grande parsimonia. Essi si possono anche confrontare a dei malati, lontani dalla loro patria, la cui ultima speranza di guarigione è l'aria nativa. Così resta a essi, per condurre un'esistenza utile e generare figli sani, un ritorno alle origini, con un'opera forse più di selezione e di rifacimento che di nuovissima creazione. Resta a essi quello che finora fu solo raramente e parzialmente compiuto, la poesia onesta. Notate questa idea del ritorno alle origini, che in fin dei conti si trova anche in Ungaretti, quando Ungaretti, all'altezza di Sentimento del Tempo, della raccolta Sentimento del Tempo, parla di innocenza e memoria. Dice, cerco, veramente cerco un paese innocente, lo diceva anche prima, lo diceva già nell'Allegria, ma insomma questa idea del recupero delle origini, del ritorno alle radici come una sorta di lavacro purificatore, insomma. Allora, quindi ci sono punti di contatto, come abbiamo visto, anche con Montale e con Ungaretti, anche se lo stile di Saba resta molto più vicino alla tradizione letteraria e anche tutto sommato più chiaro, più comprensibile. Spesso quella di Saba è come prosa in versi, no? In cui i concetti prevalgono sullo stile. E in questo senso effettivamente il modello manzoniano poteva avere una sua importanza. Comunque andiamo con ordine. Noi leggiamo Ulisse, la capra e Città vecchia. Tre testi davvero straordinari, soprattutto la capra e Ulisse. Dunque, la capra. Una volta la facevano leggere sempre a scuola, poi a quanto pare è caduta un po' nel dimenticatoio. 1909-1910 il periodo, ma è chiaro che dopo la seconda guerra mondiale questi versi assumevano tutto un altro significato, anche se gli ebrei erano stati perseguitati per 2000 anni, quindi la persecuzione nazista era solo, si fa per dire, la più sistematica, la più vicina a noi nel tempo, ma la storia, pensate che l'imperatore Adriano sterminò qualcosa come 600.000 ebrei, no? Quando si ribellarono alla costruzione di un tempio a Giove sulle rovine del tempio di Gerusalemme, che era stato raso al suolo da Vespasiano e Tito, no? Da Tito. Ho parlato a una capra, era sola sul prato, era legata, sazia d'erba, bagnata dalla pioggia, belava. Quell'uguale belato era fraterno al mio dolore, ed io risposi prima per ceglia, poi perché il dolore è eterno, ha una voce e non varia. Questa voce sentiva gemere in una capra solitaria, in una capra dal viso semita sentiva querelarsi ogni altro male, ogni altra vita. Qui sentiva sta per sentivo, è un imperfetto letterario di uso latino. Notate, metro che ricorda molto quello leopardiano, cioè endecasillabi e settenari liberamente alternati e rimati. Quindi un metro così particolarmente consono ad una poesia riflessiva e discorsiva. Ecco, ho parlato a una capra. Già l'incipit è abbastanza straniante perché sembra abbastanza paradossale, ridicolo, no? Che uno parli a una capra. Era sola sul prato, era legata, sazia d'erba, bagnata dalla pioggia, belava. Quindi anche se era sazia, era comunque sofferente. Quell'uguale belato, uguale, vuol dire uniforme, monotono. Belato era fraterno al mio dolore. Beh, Saba, un po' come Pascoli, no? Coglie un'affinità, un'analogia, una corrispondenza fra la sofferenza dell'uomo e quella degli animali. Ed io risposi prima per ciglia, cioè per scherzo, poi perché il dolore è eterno, ha una voce e non varia. Splendida questa espressione, il dolore è eterno, accomuna tutte le epoche e accomuna anche uomini e animali. Non c'è nessuna differenza fra il lamento di un animale e il pianto di un essere umano. Beh, in fin dei conti è vero, se ci pensate, il creato è tutto. E qui viene in mente un po' San Paolo che dice, no? Tutta la creazione geme nelle doglie del parto, no? Tutta la creazione, cioè. Tutta la natura è attraversata da voluttà, ma nello stesso tempo dolore. Dice, questa voce sentivo gemere in una capra solitaria. Cioè il lamento di quella capra, il belato di quella capra, era come espressione di un dolore universale. Ecco, in una capra del video semita, ecco, alcuni accusarono paradossalmente Saba, che pure era per metà ebreo, di essere antisemita, perché dire che la capra ha la faccia di un ebreo, praticamente, una capra del viso semita, sembra un terribile insulto xenofobo. In realtà quelli che lo accusavano di questo non avevano capito niente. Cioè, qual è il messaggio? Appunto, la capra ha il viso semita perché gli ebrei sono il popolo sofferente e perseguitato per eccellenza. Diventano come un emblema della sofferenza universale. E qui c'è un riferimento anche biblico, con tutta probabilità, a quei versi del profeta Isaia che abbiamo già citato a proposito di Montale, che in tutt'altro contesto, ma c'è una qualche corrispondenza, perché si allude proprio alla visita di Hitler a Firenze, 1939, no? C'è quel riferimento ai capretti macellati come vittime innocenti, no? E allora c'è forse un richiamo a quei versetti del profeta Isaia: sono come pecore al macello. Beh, vabbè, qui veramente si tratta di pecore, capre, più o meno, insomma, bestie sacrificali, diciamo, vittime innocenti per eccellenza. Dunque, altro testo significa, ecco, notate l'uso di questo querelarsi, lamentarsi, ma noi per querela intendiamo la querela, cioè la denuncia, no, che uno sporge in tribunale. Invece querelarsi, nel senso di lamentarsi, è un verbo molto, molto letterario, no? Un latinismo. Che dà già così la cifra di questo stile di Saba, che non ha problemi ad usare termini della tradizione aulica, sebbene la sua poesia per lo più sia comprensibile e chiara. Allora, splendido questo altro testo, Ulisse, che invece risale al risale al non lo so, andate a cercare voi, comunque, endecasillabi sciolti. Nella mia giovinezza, anzi giovanezza, la forma arcaica, no? Ho navigato lungo le coste dalmate, isolotti a fior d'onda emergevano, ove raro un uccello sostava intento a prede, coperti d'alghe scivolosi al sole, belli come smeraldi. Quando l'alta marea e la notte li annullava, vele sotto vento sbandavano più al largo per fuggirne l'insidia. Oggi il mio regno è quella terra di nessuno. Il porto accende ad altri i suoi lumi, ma al largo sospinge ancora il non domato spirito e della vita il doloroso amore. Qui vedete, insomma, questo testo si inserisce nel solco delle varie rivisitazioni del mito di Ulisse. L'antecedente più diretto, più immediato, è chiaramente Foscolo, no? I sonetti, no, in cui viene evocata la figura dell'esule per mare, no, dell'Ulisside, insomma, no. E allora questi isolotti scivolosi e belli come smeraldi, no, rappresentano le insidie della vita. Questo è un simbolo, anche se facilmente decifrabile. Ecco, lui dice, altre vele cercavano, cioè altre imbarcazioni cercavano di evitare quegli isolotti, quelle insidie, quei pericoli, insomma. Il mio regno oggi è quella terra di nessuno, e qui viene in mente l'Ulisse dantesco, no? Il mondo senza gente, cioè, diciamo, dice il poeta, io mi inoltro così nel mare aperto della vita, con tutti i suoi imprevisti, tutte le sue insidie, i suoi pericoli, ma anche le sue seduzioni, le sue fascinazioni. Altri possono arrivare al porto, dice, io invece sono ancora spinto in questo viaggio senza fine, ecco. Sospinto dal doloroso amore della vita. Perché l'amore della vita è doloroso? Perché spinge a compiere tante esperienze, ad avere tante relazioni, tanti legami, tante passioni, da cui spesso si resta anche disillusi. Ecco, notate che qui l'espressione di Saba è molto suggestiva, evocativa, ma nello stesso tempo esatta, precisa. Cioè, è difficile trovare quelle espressioni indeterminate, così sfumate, indecifrabili, che si trovano invece negli ermetici. Dunque, per concludere, il testo più tipico di Saba, cioè il testo forse più caratteristico, cioè Città Vecchia, in cui viene descritta la città di Trieste, in particolare i quartieri popolari della città di Trieste, la gente comune, anche la gente di condizione umile, a cui il poeta si sente particolarmente vicino. Siamo proprio agli antipodi di D'Annunzio. D'Annunzio sì, rappresenta anche ambienti popolari, nelle novelle, ad esempio, le novelle della Pescara, Terra Vergine. Anche in alcuni brani del Trionfo della Morte, anche nella Figlia di Iorio c'è la rappresentazione dei costumi popolari, della magia. Lo stile di D'Annunzio, anche quando tocca così ambienti e figure di carattere popolare, è sempre uno stile estetizzante, uno stile molto prezioso, ricercato. D'Annunzio riesce a rappresentare anche quanto di più orrido, di più disgustoso, di più vile, comunque sempre con uno stile elevato. Mentre sentite qui lo stile di Saba, questi sono. Non si può parlare veramente di versi liberi perché endecasillabi, settenari, quinari, trisillabi, quindi viene sempre usato il verso imparisillabo, quindi predomina questo accostamento endecasillabo settenario, che sono un po' come la pizza della Coca-Cola o come, non so, gli spaghetti con il pomodoro. Insomma, l'endecasillabo si accorda molto bene con il settenario, anche perché spesso il primo emisticchio di un endecasillabo è un settenario di fatto, quindi l'abbinamento è molto consono e anche collaudato dalla tradizione letteraria. Spesso per ritornare alla mia casa prendo un'oscura via di città vecchia. Giallo in qualche pozzanghera si specchia qualche fanale e affollata è la strada. Qui viene in mente un po' la Parigi di Baudelaire, se vogliamo, insomma, uno scenario urbano, insomma, con i fanali che si specchiano nel fango. Insomma. Qui tra la gente che viene, che va, dall'osteria alla casa o al lupanare, cioè al postribolo, insomma, il lupanare è un termine un po' aulico per indicare il bordello, dove son merci ed uomini il detrito di un gran porto di mare, merci ed uomini, cioè anche gli uomini sono messi sullo stesso piano delle merci, sono comunque rifiuti, sono comunque tracce di marginalità. Io ritrovo passando l'infinito nell'umiltà, ecco. Anche in queste cose così umili, modeste, poveri uomini, merci, prostitute, marinai, vecchi, la giovane impazzita d'amore, insomma, anche in queste creature così umili si trova, dice, Saba trova una traccia dell'infinito. In questo c'è un atteggiamento molto, molto cristiano, se vogliamo, riuscire a vedere qualcosa di nobile, qualcosa di elevato, addirittura una traccia dell'infinito anche nelle creature più umili. Ma si potrebbe citare anche Blake, no? Tenere l'infinito nel palmo della mano, no? Come dicono quei famosi versi di William Blake, dice: qui prostituta e marinaio, il vecchio che bestemmia, la femmina che bega, cioè che litiga, il dragone, qui per dragone si intende un soldato, che siede alla bottega del friggitore, la tumultuante giovane impazzita d'amore, sono tutte creature della vita e del dolore. Notate questa rima così facile, friggitore, amore, dolore, no? Addirittura friggitore, insomma. Poi amore, dolore, una rima elementare, sembra quasi, quasi puerile, difficilmente in un ermetico o anche in Montale si sarebbe trovata una rima così, così facile, quasi da canzone popolare, eppure in questo contesto ha un significato particolare. C'è quella famosa poesia, quella tipica poesia sempre citata che ho già richiamato, amai trite parole che nessuno osava, mi incantò la rima fiore amore, amai trite parole, dov'è pure la poesia intitolata appunto amai, un brevissimo testo che trovate facilmente. Amai trite parole che non uno osava, mi incantò la rima fiore amore, la più antica, difficile del mondo. Amai la verità che giace al fondo, quasi un sogno obliato che il dolore riscopre amica. Con paura il cuore le si accosta che più non l'abbandona. Amo te che mi ascolti e la mia buona carta lasciata al fine del mio gioco. Però vedete la verità che giace al fondo, amai la verità che giace al fondo. Questo è un concetto, questa è un'espressione anche che fa pensare ad Ungaretti, cioè al porto sepolto di Ungaretti, cioè la ricerca di qualcosa di originario, di profondo, primigenio, di aurorale. Potrebbe essere anche la profondità del subconscio, la verità che giace al fondo, no? Quindi insomma. Diciamo che stile così tradizionale, a volte fin troppo immediato, e pensiero decisamente moderno si fondono in Saba. Dice: la tumultuante giovane impazzita d'amore sono tutte creature della vita e del dolore, s'agita in esse come in me il Signore. Signore, quindi riferimento al Dio ebraico trattino cristiano che si manifesta proprio nel dolore. Ci sono riferimenti alle vittime sacrificali nell'Antico Testamento, ma soprattutto nel Nuovo, no? Cristo è per definizione, no? L'agnello di Dio, la bestia sacrificale, la vittima innocente. Del resto, nel pensiero cristiano, proprio quelle allusioni dell'Antico Testamento vengono viste come anticipazioni, come profezie della figura di Cristo. In questo senso, forse, proprio in questa fusione di amore e di dolore, c'è anche la conciliazione fra le due componenti, quella ebraica e quella cristiana, della sensibilità sabiana. Qui degli umili sento in compagnia il mio pensiero farsi più puro, dove più turpe è la via. Ecco, questi sono concetti e termini che si ritroveranno in Pasolini, ma noi non... anche nel cinema di Pasolini, oltre che nella sua narrativa, nella sua poesia, cioè proprio nelle forme più degradate, più basse, più umili della vita del popolo, ecco, la vita è più pura, più autentica, più innocente, no? Sento il mio pensiero farsi più puro dove più turpe è la via. Insomma, proprio queste forme di vita così elementari, quasi animalesche, no? In mezzo al fango, alla sporcizia, alle pozzanghere, prostitute, la giovane pazza, il vecchio che bestemmia, insomma, questa epopea di bassa vita, come avrebbe detto Jean Genet. Ecco, Jean Genet, nell'opera di Genet si trovano proprio questi ambienti così, il marinaio, la prostituta, questi ambienti così degradati, così bassi. Eppure proprio lì, dice Saba, con un sentimento autenticamente cristiano, se vogliamo, proprio lì, ecco, la vita è più autentica, è più pura. Bene, direi che siamo giunti al termine. Beh, un'ora, dai. E quindi a questo punto... niente, torneremo in contatto, ci riscriveremo e ci risentiremo per a questo punto direi per l'esame, visto che dopo il 15 maggio non si possono spiegare argomenti nuovi e io me ne guardo bene, quindi a risentirci.